24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:32 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua per una nuova puntata di 24 mattino fino alle 9. Io voglio subito lanciare il sondaggio bianco o nero di cui parleremo alle 8:30, un sondaggio per il quale potete già votare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Prendiamo spunto da una dichiarazione del presidente della Camera di Commercio di Rimini di recente, che ha detto sostanzialmente: sì, è vero, alcune imprese evadono il fisco, ma per alcune di loro è una questione di sopravvivenza, o evadono o chiudono. Siete d'accordo? Evadere per sopravvivere, che ne pensate? È giusto o sbagliato? Evadere come forma di resistenza per rimanere in vita. Evasione fiscale vista la pressione fiscale. Dalle 8:30 alle 9, ma potete già votare come state facendo, radio24.it o ilsole24ore.com. E ora la lettura dei giornali. In primo piano. La lettura del giornale alle 7:33 minuti. Oggi c'è tanta politica, soprattutto politica, i veleni della politica, il retroscena della politica, inevitabile dopo la pubblicazione ieri del Corriere della Sera dei verbali di Giampaolo Tarantini. Basta dare una veloce lettura dei titoli di apertura dei giornali. Il Corriere della Sera: sanità, parlamentari nell'inchiesta, è la seconda puntata che vedremo subito. La Repubblica: tutte le escort di Berlusconi. La Stampa: il premier offre la pace ma a fini non basta, c'è stato un nuovo botta e risposta tra Fini e Berlusconi ieri. L'Unità: impegni istituzionali, ci sono le foto di tre delle ragazze citate da Tarantini. E dice l'Unità nel titolo di prima pagina: nelle stesse ore il premier parlava di Obama, il Papa, la crisi scuola, l'Italia, intanto poi incontrava, secondo Tarantini, queste ragazze. Libero: ci risiamo, siluro a Dell'Utri, e qui ci sono le accuse dei pentiti sulle quali starebbero lavorando le procure citate da Berlusconi. E ancora: due giudici anti-premier in redazione, questa è l'apertura del giornale che poi vedremo, interessante. Berlusconi, Fini, duello a distanza, il Messaggero. Insomma, il clima è quello che è, un clima sicuramente di grande tensione politica e di retroscena anche interessanti su cui i giornali si concentrano. Cominciamo proprio dal Corriere della Sera, come detto apre con una nuova puntata sulle indagini di Bari. Sanità, parlamentari nell'inchiesta. Tre o quattro parlamentari sono coinvolti nelle indagini sulla corruzione della sanità pugliese. Lo avrebbe appreso il capo della commissione del Senato, il parlamentare Astore, che è andato a parlare con i magistrati nella sua veste istituzionale. Ci sono politici coinvolti, ha chiesto il senatore, e i PM hanno risposto dopo varia esitazione: sì, ce ne sono tre o quattro di parlamentari. I nomi ovviamente sono stati omessi. Tra l'altro c'è, viste le dichiarazioni, visti i verbali ieri di Tarantini, le 30 ragazze citate per il premier Berlusconi, ma anche per l'ex vicepresidente della Regione Puglia del Partito Democratico Frisullo. E poi c'è quella dichiarazione: organizzai anche una cena per Massimo D'Alema. Massimo D'Alema che oggi prende carta e penna e scrive proprio al Corriere della Sera. Racconta D'Alema: ora ho ricostruito quello di cui si parla. Ho partecipato a centinaia di incontri, compresi pranzi e cene per il Partito Democratico. Per quanto riguarda la cena in cui si parla, ho ricostruito di cosa si sia trattato, di uno degli impegni di una serata assai densa. Arrivai tardi, feci un breve saluto, me ne andai. Mi rivolsi a un pubblico di professionisti e operatori della medicina. Le assicuro, scrive Massimo D'Alema in questa lettera al direttore del Corriere De Bortoli, che non avevo alcuna idea di chi aveva organizzato, promosso e pagato. E poi D'Alema parla di Frisullo, appunto. Per quanto riguarda Frisullo, già vicepresidente del governo regionale della Puglia e che appare coinvolto nel rapporto con alcune delle escort che collaboravano con il Tarantini, vorrei dire che, conoscendolo da tanti anni, avendo apprezzato il suo impegno politico, la sua opera di governo, sono umanamente dispiaciuto per la situazione in cui è venuto a trovarsi. Tuttavia egli ha sbagliato e certi comportamenti non sono compatibili con le funzioni di uomo pubblico e responsabilità di governo. Dunque D'Alema che dice: non conosco Tarantini, e poi sostanzialmente con questa frase scarica lo stesso Frisullo. Tra l'altro basta girare pagina 6 del Corriere ci sono un nuovo articolo di Fiorenza Sarzanini e Angela Balenzano con i nuovi verbali, in questo caso sull'estate di Tarantini, droga e affari nella mia villa. I verbali con le feste in Sardegna, con cocaina nella cassaforte, tutta una serie di persone ancora citate, coinvolte da questi verbali, come Sabina Began, soprannominata l'ape regina per essere una delle favorite del premier, oppure Eva Cavalli, anche la moglie di Eva Cavalli, secondo Tarantini in una di queste feste sarebbe stata male. Dalle intercettazioni emerge che la moglie dello stilista Cavalli si sarebbe sentita male proprio durante una delle feste organizzate in Sardegna. Insomma, nuovi verbali che faranno discutere, e anche interviste alle ragazze citate ieri. Tra queste Barbara Guerra: io sono sotto shock, non sono una escort, facevamo cene allegre, non orge. Per dire, a una cena c'era anche il coreografo del Bagaglino, Gianni Lauro. Abbiamo ballato, mangiato, cose normali. Il presidente ha raccontato barzellette. E anche Carolina Marconi: il cavaliere me l'ha presentato la Savino, la parlamentare Savino. Non ho mai dormito con lui. E se volete sapere, non lo chiamo neppure Papi, anche perché è una persona anziana e non ci sono mai andata a letto, tanto per essere chiari. Insomma, questo è il clima. Repubblica: c'è la bionda, ne vale la pena. Repubblica scrive a pagina 3 che ci sarebbero anche delle intercettazioni tra Silvio Berlusconi e Tarantini, registrazioni di 50 colloqui fatte dalla Guardia di Finanza, telefonate frequenti, scrive Repubblica, in cui l'argomento sarebbe unico: l'organizzazione delle feste a Palazzo Grazioli a Villa Certosa. Oggi porto una bionda che non può assolutamente perdere, diceva l'imprenditore al premier. Oggi ce n'è una bellissima, ripeteva, ne vale la pena, e così via dicendo. Sempre per quel che riguarda il clima politico, interviene per quel che riguarda il coinvolgimento di Frisullo, l'ex vicepresidente della regione del Partito Democratico, interviene il sindaco di Bari, Emiliano, che è un ex magistrato. E Tarantini lo conosce, chiede l'intervistatore. Insomma, ormai conoscere o non conoscere Tarantini sembra che muova la politica in Italia. L'ho visto per la prima volta, dice Emiliano, a questa famosa cena di autofinanziamento organizzata per D'Alema. Massimo mi chiamò per chiedermi di andare, lui avrebbe tardato. Varcai la porta del ristorante, mi fu presentato questo signore che disse di chiamarsi Giampaolo Tarantini. Ho ancora la memoria da sbirro. Davanti a quel nome raggelai. D'Alema arrivò verso le 11, rimase 10 minuti, non di più, giusto il tempo dei saluti, poi scappammo via. Non si poteva essere commensali di quel signore. Emiliano, che comunque dice: fuori dal PD chi abusa del suo potere. Come dire, il graffio di Iena a pagina 3 della Stampa forse riassume moltissimo. Iena alias Riccardo Barenghi: 30 ragazze per Berlusconi e 2 per Frisullo. Immediata la reazione di D'Alema: rilanciamo il PD. A proposito del PD e a proposito di quello che bolle in pentola della politica, oggi c'è un interessante editoriale, l'editoriale di apertura del Corriere della Sera di Angelo Panebianco, dal titolo Un'offerta inesistente. Si analizza proprio il profilo politico del PD. È molto duro, professor Panebianco, che scrive: quando Massimo D'Alema dice che un partito del 27-30% può andare al governo solo costruendo alleanze, rivela la sua sfiducia nella possibilità di crescita autonoma del partito, una sfiducia della quale è peraltro facile identificare l'origine. Va cercata in una pagina di storia ormai chiusa, quella del Partito Comunista. Non critico D'Alema per questo, tutti noi siamo condizionati dalle nostre esperienze passate, ma è un fatto che pensare che un partito del 30% sia condannato a rimanere tale è un portato di quell'esperienza. Tra l'altro Panebianco, più avanti ancora più duro, analizza quella che secondo lui sarebbe l'offerta inesistente del PD. Per esempio, sull'immigrazione clandestina il PD balbetta: affiorano qui cascami di ammuffiti terzomondismi di origine comunista e cattolica. La sola cosa che il PD sa fare è accusare di razzismo il governo, ma davvero la politica detta dei respingimenti può essere così liquidata? Zapatero, il premier spagnolo, non risulta iscritto alla Lega Nord, ma tratta con la massima durezza l'immigrazione clandestina. Non è forse nell'interesse dei paesi europei mandare messaggi chiari alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani? E ancora, scrive Panebianco, davvero il reato di clandestinità è un'infamia? Che lo descriva così qualche vescovo poco interessato al fatto che l'Italia possieda dei confini è comprensibile. Ma se lo fa un partito di opposizione, esso si condanna a non diventare forza di governo. Tra l'altro, per quel che riguarda il clima politico, fioriscono ormai in retroscena le idee di complotti veri e propri. Beh, ieri e anche oggi il Libero, per esempio, torna con questo tema. Insomma, così vogliono far cadere Silvio, era il titolo di ieri. E ci risiamo, Siluro a Dell'Utri, questo è il titolo di oggi. Le rivelazioni, in questo caso, sono le rivelazioni legate al periodo delle stragi di mafia. Le rivelazioni del figlio di Ciancimino ai magistrati siciliani che indagano su mafia e politica, stragi, Provenzano e altro. Così quattro procure sperano di far cadere finalmente Berlusconi. Ed è una teoria che, per esempio, è sposata da Pierluigi Magnaschi, che fa sempre un'analisi molto acuta a pagina 2 di Italia Oggi. Ebbene, scrive oggi Magnaschi: con Giovanni Leone ci sono riusciti, con Giovanni Cossiga hanno, che poi è un refuso, insomma, Francesco Cossiga, hanno dovuto battere in ritirata. Con Silvio Berlusconi non si sa come andrà a finire. Si tratta dei golpe mediatici attuati o tentati da un sistema informativo malato, che pure è abituato a vedere i golpe degli altri ad ogni piè sospinto. Stiamo parlando della decapitazione per via mediatica di esponenti politico-istituzionali legittimamente eletti, ma che non sono graditi a una casta mediatica e di potere, e che quindi, non potendo essere mandati a casa attraverso le vie proceduralmente corrette, cioè con delle votazioni legali nelle sedi opportune, vengono delegittimati con feroci campagne di stampa, fino a fare attorno ad essi il vuoto politico, inducendoli così a gettare la spugna. E scrive più avanti Magnaschi, questa volta dopo appunto Leone e Cossiga, sulla griglia c'è Silvio Berlusconi, e Berlusconi, come Cossiga, fiutata la trappola, fa il matto, dichiara ruota libera, carica tutte le bocche di fuoco che possiede. Insomma, per Pierluigi Magnaschi il copione, come dice il titolo, con Leone, Cossiga e il CAV, il copione è sempre lo stesso, il tentativo di delegittimazione. A questo proposito è molto interessante quello che scrive Il Riformista. Il Riformista, pagina 1, Fabrizio Esposito, analizza il perché del fatto che il Corriere ieri ha pubblicato questi verbali. Un salto di qualità, scrive D'Esposito, che nasconde la storia di due fantasmi che da Noemi in poi aleggiano nei palazzi romani, quello di Gianni Letta, un tempo premier ombra e oggi potenziale leader moderato distante in maniera siderale dal berlusconismo modello Gran Guignol, e quello di Kagemusha, il guerriero ombra di Akira Kurosawa, ovvero il nome in codice che la ditta, garbuglio trasversali di poteri vari, ha affibbiato al cavaliere sempre più solo e debole. Chi è al corrente di ciò che si muoverebbe realmente dietro le quinte della politica e della finanza inquadra così la svolta del Corriere de Bortoliano, l'apertura del giornale con un titolo a 6 colonne dedicata alle nuove rivelazioni del pugliese Giampaolo Tarantini su 30 ragazze dell'harem di Palazzo Grazioli. Insomma, il governissimo dietro la svolta del Corsera, del Corriere della Sera, questo è il titolo del Riformista, pagina 3, questo retroscena, come dire, via Solferino ritorna agguerrita contro il premier, scrive il Riformista, un po' perché teme di perdere copie, un po' perché pensa che la sua fine sia vicina e si sta preparando il dopo Berlusconi. Che ne dite, come clima politico? È abbastanza torbido? In primo piano. Alle 7:47 minuti la lettura dei giornali. La ripresa ci sarà ma lenta. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore che si dedica ovviamente alla conclusione del seminario di Centro Studi di Confindustria con le stime appunto lanciate da Confindustria. Fine del tunnel ma ripresa lenta, questa pagina 3. E tra l'altro c'è un'efficace metafora raccontata da Rossella Bocciarelli che cita il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi. È come se ci fosse stato un enorme incendio, dice Paolazzi, che ha lasciato alcuni alberi in piedi e tra i rami bruciaccati spuntano alcuni germogli che in qualche punto stanno diventando arbusti. L'incendio è spento, ma il problema ora è rimboschire. Così viene definita, insomma, la via della ripresa dopo la crisi. Tra l'altro il Centro Studi, che ha ridotto leggermente da meno 4,9 a meno 4,8% la stima della flessione del PIL per l'anno in corso e ha ritoccato verso l'alto la crescita prevista per l'anno prossimo, un più 0,8% rispetto al precedente più 0,7%. Rimanendo sul Sole 24 Ore, è molto interessante l'articolo in prima pagina, e che poi prosegue all'interno, a firma Paolo Del Bufalo. Italiani, un popolo di aspiranti infermieri. Un articolo che si analizza quelle che sono le domande dei maturati, di coloro che hanno fatto la maturità e che si sono presentati a fare i test per le professioni della sanità. Un vero e proprio boom. Sarà la crisi, sarà che tentar non nuoce, ma una voglia inossidabile continua a serpeggiare tra i giovani italiani che sempre più preoccupati guardano al futuro e intanto cercano un posto all'università. Oltre 201.000 quest'anno hanno fatto domanda per i test di ammissione a medicina, odontoiatria e all'ampio ventaglio delle professioni sanitarie. Si tratta di un aumento del 23%, più di 32.000 rispetto all'anno scorso, un vero e proprio boom che ha portato 4 maturati su 10 a tentare l'accesso alle attività mediche o infermieristiche. Si è sempre detto che mancano queste professioni. E chissà, per il futuro, con questa inversione di tendenza, non dovrebbe essere così. Ci sono anche molti articoli sull'evasione fiscale, li cito perché voglio ricordare il sondaggio di oggi. Gli articoli sono innanzitutto che vengono dalla Spagna, una notizia che per gli spagnoli non farà certo piacere. Più tasse in Spagna, stangata da 15 miliardi, Zapatero costretto a usare la leva fiscale per finanziare il deficit. Questo sulla Stampa, e sul Sole 24 Ore c'è anche un'intervista, un'intera pagina, al ministro dell'economia spagnolo Elena Salgado, che spiega il percorso di uscita dalla crisi. Alzeremo le tasse di 15 miliardi. Vabbè, ma diciamo, quella è la Spagna, chi se ne frega. E invece anche in Italia si parla di evasione fiscale, sia su Il Giornale che su Libero. Libero, c'è la prima lista, 2.000 evasori nascosti all'estero. San Marino ha già consegnato 400 nomi. La Svizzera per il momento mantiene il segreto, questo scrive Franco Bechis. Insomma, l'Agenzia delle Entrate sarebbe in fermento per cercare di recuperare appunto i titolari dei conti all'estero. Così come Il Giornale, gli italiani sono sotto la lente del redditometro. Auto di lusso, yacht, cavalli, ma anche beauty farm, assicurazioni, tutto serve per scoprire chi ha un tenore di vita non giustificato dai redditi dichiarati. D'altronde, come diceva un paio di giorni fa Il Sole 24 Ore, l'italiano medio dichiara 100 ma spende 120. A questo proposito io lo ricordo il sondaggio per il quale potete, dovete votare sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore. Ne parleremo dalle 8.30 alle 9, a partire da questa dichiarazione che ha fatto discutere del presidente della Camera di Commercio di Rimini, che ha detto: sì, è vero, ci sono delle imprese che evadono, ma lo fanno perché non hanno alternativa, altrimenti dovrebbero chiudere. E dunque vogliamo provocare così, evadere per sopravvivere alla pressione fiscale? Che ne pensate? Andate a votare. Intanto continuiamo la lettura dei giornali con ancora un paio di segnalazioni, diciamo, politiche, nel senso che, come avevo detto, l'apertura del giornale era dedicata a un titolo che poteva sembrare arcano. Due giudici anti-premier in redazione. Si tratta di che redazione? Della redazione del nuovo giornale, che non è ancora uscito, Il Fatto, dove lavorerà tra l'altro Marco Travaglio. Infatti il titolo all'interno è questo: Il Fatto di Travaglio, dove i giudici fanno i giornalisti. Ieri c'è stata una riunione nella redazione per parlare di questo nuovo giornale e scrive Il Giornale di Feltri: Ingroia e Scarpinato, che sono due magistrati in prima fila in inchieste anche antimafia importanti, tengono a battesimo Il Fatto, un quotidiano che fa dell'anti-berlusconismo la propria linea editoriale. Poi pretendono che crediamo alla favoletta dell'imparzialità dei magistrati. E poi c'è un'interessante intervista sul Manifesto a Michele Santoro. Michele Santoro, che ha lanciato l'allarme, vogliono chiudere anno zero, comunque c'è un problema anno zero. Norma Rangeri lo intervista, la pagina 2 e pagina 3. Tra due settimane vedremo anno zero, chiede Norma Rangeri. Quali servizi state preparando? Nessuno. Le troupe sono ferme, dice Santoro. Ferme perché i contratti non sono stati firmati. Se andremo in onda sarà con travaglio. Altro non so dirti. Ancora, più avanti, Santoro, l'editto bulgaro non è mai finito, è diventato la legge della comunicazione in Italia. E ancora, non ce n'è abbastanza? Risponde una domanda sulla manifestazione per la libertà di stampa indetta il 19 settembre, dice Santoro. Posso dire? Il fascismo aveva più rispetto per le intelligenze culturali nel teatro, nel cinema, non faceva dell'ignoranza e dell'incompetenza la sua bandiera. Siamo a un funzionariato servile, come del resto è emerso dalle telefonate tra Berlusconi e un dirigente della RAI. Un'intervista pacata che certo non servirà a placare gli animi per quel che riguarda la sua situazione. Qualche citazione in chiusura di taglio diverso, interessante. Per esempio, mi ha molto colpito a pagina 26-27 di Repubblica, due pagine intere, per restare a problemi magari un po' più vicini e concreti per la gente. L'asilo resta un miraggio. A casa 9 bimbi su 10, pochi posti, soprattutto al centro-sud. Fino a 3 anni, piccoli inesistenti per il welfare. Sostanzialmente Repubblica analizza le più grandi città, Milano, Torino, Genova, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, per vedere come le offerte di asili, soprattutto asili nido, sono davvero, davvero poche. Le Maldive è un posto dove molti italiani vanno. Ebbene, oggi il Corriere della Sera ci informa che è in arrivo una tassa ecologica per salvare le Maldive. Dall'oceano che sale, ogni turista pagherà 3 euro al giorno. Lo sta pensando il presidente Mohamed Nasheed, che ha annunciato lunedì di essere sul punto di introdurre appunto una tassa verde, quella per i visitatori da destinare alle spese per la salvaguardia dell'ecosistema. Con questa segnalazione mi fermo, ricordo il sondaggio, andate a votare, la domanda anche un po' provocatoria è questa: è giusto evadere il fisco per sopravvivere, se si deve sopravvivere a una pressione fiscale molto alta che magari costringe altrimenti alcune aziende a chiudere? Sì o no? Radio24.it o il sole24ore.com. Eccoci qua, le 8:18 minuti. Prima mi sono dimenticato, ma c'è il numero per intervenire anche nel nostro sondaggio, 800 24 00 24. Parleremo di evasione fiscale. È giusto evadere a costo di sopravvivenza, per sopravvivere soprattutto alcune imprese? L'economia. Soldi e dintorni. Per l'appunto, l'economia. Beh, perdi qualche pezzo stamattina. Sì, parliamoci chiaro. Deborah Nociani, l'avete sentita, non c'è bisogno di presentarla. No, ormai. Assolutamente, ormai non ho più alcuna. Entra in casa senza aprire la porta. Eh sì, e cosa faccio? Cioè, senza aprire la porta, senza bussare. Sì, sono a pezzi. Allora, senti un po', Alessandro, ma tu l'avevi sentita quella del tizio rapinato al bancomat da un corvo? Da un corvo no, di tizi rapinati al banco. No, eppure guarda, ti assicuro che abbiamo scoperto che è successa anche questa cosa. C'è stato questo signore che si è visto derubare davanti al bancomat da un corvo addestrato per fregare, caso di dirlo, i soldi al volo. A vedere cosa si inventano per scippare i soldi agli sportelli automatici sembra quasi che non ci sia più rimasto niente da inventare. Invece il rischio di frodi, di furti per mezzo di tastiere fasulle o microcamere ultra tecnologiche sempre costante, se non addirittura in aumento, e questo è quanto ha rilevato un'indagine che è stata diffusa nei giorni scorsi, è stata condotta da l'ENISA, l'agenzia europea dedicata alla sicurezza delle reti informatiche, che appunto ha presentato questi dati che ci sono sembrati anche un po' allarmanti. Pensa, Alessandro, che questa ricerca è stata anche divulgata da molti giornali, pubblicata due giorni fa anche dal sito del Sole 24 Ore. Sembra che sia stato per tutta la giornata l'articolo più cliccato in assoluto dagli utenti di internet. E allora ci siamo incuriositi anche noi, al di là delle cifre sull'aumento dei furti al bancomat, quello che ci interessa capire stamattina è come ci possiamo anche cautelare da questa giungla di ladri. Buongiorno alla dottoressa Isabella Santa, responsabile della sezione sensibilizzazione informatica di ENISA. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. E grazie di essere intervenuta a Soldi e Dintorni. Ci spiega intanto, ci fa il bigliettino da visita della vostra agenzia, dottoressa? Che cosa fate? Sì, l'agenzia è un'agenzia europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni, è un'organizzazione che è stata costituita dalla Commissione nel 2004 e fornisce consulenza e consigli agli Stati membri e alle istituzioni chiaramente europee sul tema della sicurezza. In particolare il mio gruppo si occupa di tematiche per andare a sensibilizzare gli utenti su come utilizzare gli sportelli automatici, come appunto computer, come comportarsi quando vengono utilizzati ad esempio telefonini, PDA, BlackBerry. Quindi cerchiamo di chiaramente sensibilizzare gli utenti a come difendersi meglio da qualsiasi tipo di attacco. Ecco, appunto, perché invece i malviventi sanno benissimo come poter utilizzare per esempio gli sportelli bancomat. Dottoressa Santa, la vostra ricerca ha rivelato che l'anno scorso il numero degli sportelli automatici in Europa per prelievo di denaro contante e gli ATM è aumentato del 6% fino a raggiungere quasi 400.000 unità. Ma nel contempo, sempre nel 2008, l'aumento dei reati connessi commessi tramite gli sportelli automatici ha avuto un aumento del 149%. Che cosa è successo? Sì, c'è stata una diffusione in Europa degli sportelli automatici fino ad arrivare a 400.000 unità. Se si pensa che solamente il 72% degli ATM è concentrato in 5 paesi europei, il primo tra tutti l'Inghilterra, segue l'Italia al quinto posto con 44.500 sportelli. La diffusione del numero degli sportelli chiaramente ha portato un aumento delle possibilità per le persone, i truffatori, a carpire il denaro ai malcapitati, quindi è un aumento che è stato costante. Ecco. In Italia. No, prego, in Italia? E dunque gli sportelli si sono diffusi non solo nelle agenzie bancarie, ma anche nei centri commerciali, dai benzinai, nei negozi, per cui la diffusione degli sportelli chiaramente ha portato a un aumento delle truffe. Ecco, allora quello che ci interessa capire è intanto quali sono quelle più diffuse, nelle quali magari possiamo anche capitare noi nel momento in cui facciamo un prelievo. Attenzione, perché quella, come dire, metodica più diffusa, quella che conosciamo di più, è quella secondo la quale ci hanno spiegato è possibile che per esempio una microtelecamera sia installata allo sportello e che quindi controlli e registri il momento in cui noi digitiamo il nostro PIN. Ma questa è quella che appunto dicevo conosciamo di più. In realtà ce ne sono anche di altre, di tecniche, dottoressa Santa, sono anche più sofisticate oggi. Quali sono? Sì, le tecniche sono molteplici, a parte quella che lei ha menzionato, che è la più famosa, lo skimming, c'è il cosiddetto shoulder surfing, quindi quando una persona si apposta alle spalle dell'utente che sta facendo un'operazione bancaria e va a spiare quello che è il PIN che viene digitato sulla tastiera, oppure in un secondo momento va a derubare i contanti che vi sono stati chiaramente forniti dalla macchina. Quindi questa è una delle tecniche. C'è la cosiddetta poi la card trapping, che è quando sostanzialmente la carta viene bloccata dalla macchina perché sono state chiaramente messe all'interno delle ATM, delle apposite chiaramente macchine dai derubatori, per cui la carta viene intrappolata. In questo caso l'utente si sente spaventato, va a riportare all'interno dell'agenzia bancaria o comunque in un altro posto quello che è successo, perché pensa che la macchina non funzioni, invece la carta poi viene recuperata dai malviventi e, visto che poi in un secondo momento avranno anche il PIN, andranno a prelevare soldi. Certo, quando insomma ci se ne accorge, non quando è troppo tardi, ci se ne accorge anche in maniera tempestiva, però in realtà il tempo magari di andare allo sportello a denunciare quello che è successo, ma il malvivente ha già, come dire, raggiunto l'obiettivo. Esatto. Infatti uno dei consigli che noi diamo è, nel caso in cui questo succeda, che la carta venga trattenuta dallo sportello, non accettare aiuto da estranei che potrebbero essere far parte di una banda che aspetta solamente il momento di aiutare la persona, eventualmente appropriarsi anche del PIN, ma di riportarlo appunto all'agenzia e alle autorità competenti. Benissimo, quindi queste sono le tecniche più diffuse. Voi, tra l'altro, come ci diceva prima, oltre ad aver individuato la statistica, quindi l'aumento dei tentativi di truffa messi a segno dai malviventi allo sportello ATM, quello che appunto banalmente, tanto per tradurlo ai nostri ascoltatori, utilizziamo per fare il prelievo di contante, può essere quello della nostra banca o quello anche di un altro istituto di credito, avete anche stilato una serie di raccomandazioni, tra cui anche scegliere lo sportello, perché anche se immaginiamo che tutti possano avere la funzione di bancomat, in realtà ci possono essere anche, come dire, delle caratteristiche di questi sportelli quelli che ci possono generare qualche dubbio, per esempio, dottoressa Santa? Ci sono degli sportelli, noi abbiamo sicuramente come nostro consiglio dato di scegliere lo sportello automatico giusto, nel senso andare a vedere se lo sportello presenta istruzioni o avvertenze supplementari come operare lo sportello, quindi questo dovrebbe già diciamo essere un campanello d'allarme per l'utente. Usare preferibilmente gli sportelli automatici all'interno di istituti bancari nel caso in cui si approcci un luogo che non è sicuro, quindi magari non ben illuminato eccetera, ma dello sportello soprattutto andare a controllare se ci sono delle alterazioni alla piccola tastiera dove si digita il codice PIN, perché molte volte diciamo che sotto questa tastiera vengono incluse delle specifiche con specifiche tecniche delle piccole così meccanismi per cui si riesce a copiare il PIN, e poi soprattutto andare a verificare che non ci siano telecamere ulteriori che sono state supplementari, che sono state messe intorno al sportello, che poi vanno sostanzialmente a registrare la persona quando digita il codice. Quindi uno dei consigli è sicuramente andare a coprire con la mano nel momento di digitazione del PIN la tastiera, di modo che se ci fosse per caso una telecamera appunto installata, questa non possa andare a registrare il PIN. Il PIN, certo, ad eseguire la registrazione. Dottoressa Santa, noi abbiamo praticamente terminato il tempo a nostra disposizione. L'ultima domanda che le volevo rivolgere è se, a fronte di questo aumento dei reati commessi tramite gli sportelli automatici nel 2008, c'è stato anche un aumento corrispondente degli standard di sicurezza predisposti dalle banche proprio per affrontare questa situazione, perché mi viene in mente un po' quello che succede in Italia. Già in Italia si usano con molta resistenza bancomat e carta di credito. Se una persona che già aveva resistenza sente questa indagine, dice: ma insomma, allora a questo punto mi convinco sempre di più che non devo utilizzare la moneta di plastica. No, questo assolutamente. Il nostro rapporto non ha l'intenzione di spaventare, ma anzi di creare consapevolezza e quindi di aiutare l'utente a utilizzare sempre di più le carte. Le banche sicuramente stanno facendo, e tutti gli istituti finanziari, grandi sforzi per andare a non solo implementare procedure, ma anche tecniche per rendere più sicuro chiaramente la transazione. Lo standard più noto che c'è in Europa, che è implementato, e in Italia implementato al 72%, il cosiddetto EMV, che rende più sicuro l'utilizzo degli sportelli, sostanzialmente è una nuova carta che ha incluso un chip che va con tecniche particolari, con ATM particolari sviluppati in modo particolare, a rendere più sicura la transazione. E insomma, il sistema bancario è perfettamente consapevole anche di quanto il sistema della malavita si organizzi sempre meglio per poterlo mettere in difficoltà. Dottoressa Santa, grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Alessandro. Eccoci, Salva Danaio. L'autunno dei prestiti. Alle 8.34 minuti, queste sono le notizie in primo piano. Per la politica ancora botta e risposta tra il premier Berlusconi e il presidente della Camera Fini. Berlusconi ieri ha parlato di fraintendimento tra i due. La replica di Fini: parlare di fraintendimento è riduttivo. E c'è attesa per il discorso che oggi Fini pronuncerà a Gubbio. Il virus dell'influenza A è più leggero del previsto, non desta particolare preoccupazione, lo ha detto il viceministro Fazio, che conferma: le scuole partiranno regolarmente, le vacanze di Natale non subiranno modifiche. E per lo sport, per il calcio, importante vittoria dell'Italia di Lippi, 2-0 alla Bulgaria, gol di Grosso Iaquinta, qualificazione ai mondiali del Sudafrica ormai a un passo. E allora, le 8.35 minuti, siete pronti per questo bianco o nero, questo sondaggio? Oggi si parla di evasione fiscale. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Ieri, giusto per dare i risultati, abbiamo parlato di Cesare Battisti, è giusta un'amnistia per chiudere gli anni di piombo, è stato un 90% di no, contrari all'amnistia. Oggi parliamo di evasione fiscale, come detto. Per votare dovete andare sul sito radio24.it, nella sezione bianco o nero, oppure sul sito ilsole24ore.com. La domanda parte da una dichiarazione fatta, poi forse, insomma, è qui tra l'altro l'ospite, quindi ci spiegherà tutto, il presidente della Camera di Commercio di Rimini, che, stando a quanto dicono i giornali, ha detto: sì, l'evasione fiscale è un problema che c'è e coinvolge anche alcune imprese, però d'altra parte con la pressione fiscale che c'è a volte è una questione proprio di sopravvivenza, insomma, e noi l'abbiamo tradotta così: evadere per sopravvivere. sopravvivere alla pressione fiscale? È giusto o sbagliato? Insomma, come estrema forma di resistenza, io potrei dire. Manlio Maggioli, buongiorno. Buongiorno. Lei è il presidente della Camera di Commercio di Rimini che ha scatenato questo putiferio. Presidente, prima delle sue precisazioni, io, se lei è così gentile, cortese, le vorrei far ascoltare una voce. Chissà se la riconosce, poi vediamo e le chiederò cosa ne pensa. Vi ricordate? Fece molto scalpore. Innanzitutto dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima. È un modo civilissimo di contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, come la tutela dell'ambiente, l'insegnamento, la salute e le stesse pensioni in parte. Allora, l'ha sentito Maggioli, se lo ricorda? Sì, certo, l'ho sentito. Chi era? Mi sembra che fosse la voce di un ministro, sì, non più in carica. Padoa Schioppa, le tasse, esatto, sono Padoa bellissime. Schioppa. Scatenò discussione etica, filosofica, economica. Ma lei che ha detto? Ha detto veramente che se le aziende, piuttosto che rischiare di chiudere, è meglio che vadano? La traduco così? Ma io come concetto condivido il concetto espresso da Padoa Schioppa. Io credo che pagare le tasse sia una cosa bella. Bella nel senso che uno si sente a posto con la propria coscienza e vive tranquillo. Occorre vedere se questo è possibile, nel senso che pagando le tasse fino all'ultimo centesimo si riesce a sopravvivere. Cioè con la pressione al 50% lei dice come si fa? Io nella mia intervista, chiamiamola intervista, al Corriere di Rimini, che è un giornale, si capisce, dissi che purtroppo per molti piccoli imprenditori l'evasione era l'unica strada per non soccombere, per sopravvivere. Ma con questo io non ho inteso, esprimere un giudizio positivo su chi evade. Sì. Ho detto piuttosto che morire, in alcuni casi forse bene evade. Però capisce che l'argomento è un po' scivoloso, il terreno è scivoloso, no, Presidente? Sì. Lei dice non è che ho detto evadete, però insomma ho detto se uno è l'alternativa tra chiudere o evadere, forse è meglio che deve fare, evade? Infatti ho detto all'incirca quello che lei ha riassunto. D'altra parte, siccome sappiamo tutti che continuare a produrre è non utile ma indispensabile, perché la nostra economia continua a svilupparsi, se davvero in alcuni casi per sopravvivere occorre trascurare il fisco, penso che sia un'alternativa, non è l'alternativa peggiore, piuttosto che soccombere, è bene questo. Accidenti, che bella, che metafora, trascurare il fisco mi mancava. Che vuol dire, Presidente? Trascurare il fisco. Vabbè, insomma, Presidente, stia con noi. Bella però, trascurare il fisco, guardi, è quasi da applausi, perché pur di non dire vado. Rimanga con noi, bella, è efficace bene. Sicuramente. Rimanga con noi, Presidente Maggioli, perché intitolandoci noi bianco o nero questo sondaggio, qualcuno ha scritto, Carlo Lottieri lo ha scritto su Il Giornale domenica, più bianco e più nero nelle posizioni sull'evasione fiscale in questo momento non sono espresse meglio che da due libri. Evasori di Roberto Ippolito, che saluto. Roberto Ippolito, buongiorno. Buongiorno, grazie. Che Carlo Lottieri dice sposa in toto le ragioni dello Stato, no? Con una prospettiva addirittura giustizialista. Dall'altra parte, elogio dell'evasore fiscale, c'è un titolo più emblematico di questo, Leonardo Facco, buongiorno. Buongiorno a voi. Leonardo Facco, tra l'altro, è fondatore del Movimento Libertario. Ippolito, le chiedo, evasori, autore di Evasori, lei che fa? Sobbalza a sentire il presidente Maggioli. Che dobbiamo fare? Piuttosto che chiudere, estrema ratio, si evade, anzi si trascura il fisco. Ma dovremmo molto semplicemente dire rubare, perché chi non paga le tasse ruba i servizi che riceve. Se quei servizi sono scadenti, dovremmo combattere tutti per averne migliori, però ruba. Siccome io questo mese ho guadagnato poco, dopo vado al supermercato, finita la trasmissione, prenderò delle cose e non le pagherò e dirò alla cassiera che non le pago per sopravvivere. La stessa cosa lo farò per le quote del condominio, che deciderò di non pagare. E fra l'altro anche non tutti i servizi del mio condominio sono eccellenti, anzi potrei fare tante obiezioni. Con questo principio noi non stiamo dicendo soltanto sì all'evasione, stiamo dicendo sì, si può rubare per sopravvivere. È chiaro che nel mondo casi di sopravvivenza per povertà per disagio sappiamo tutti che esistono e la solidarietà ci impone di andare incontro. Se vogliamo legalizzare il furto, però è un'altra storia. Però quando lo Stato arriva a questa pressione fiscale, insomma, qualcuno ha detto sia fuori ogni logica, anche lo stesso Maggioli dice assolutamente sì, però la soluzione non è quella. No, attenzione, scusate, però facciamo una riflessione molto seria e molto importante. I contribuenti onesti, e anche il governatore della Banca d'Italia a ricordarcelo, i contribuenti onesti pagano anche per i disonesti. Traduzione: i contribuenti onesti pagano di più a causa dei disonesti. Allora, se accettiamo il principio che si può non pagare per sopravvivere, domani qualcuno non pagherà ulteriormente le tasse e quei poveretti onesti, virgolette, con ironia, poveretti, pagheranno ancora di più perché qualcuno non avrà pagato, ed è una spirale assolutamente dannosa, viziosa. Leonardo Facco, lei è presidente e fondatore del Movimento Libertario, il libro che ha pubblicato Elogio dell'evasore fiscale, edito da Liberty. Che ha fatto quando ha sentito, diciamo, Maggioli, cos'è, un moto di esultanza? Ha detto, no. Io non mi meraviglio, nel senso che quello che dice Maggioli è semplicemente l'ennesima persona che dice una cosa del genere. Io le chiamo ogni tanto persone di buon senso, ma ci sono esempi illustri precedenti a lui. Basti pensare all'ex ministro Antonio Martino, che ha scritto su più giornali che se l'Italia ancora sopravvive grazie al sommerso. Quindi quella di Maggioli è una delle tante dichiarazioni di persone che concretamente si confrontano poi con la vita reale. La cosa assurda che ho sentito dire è quella di questo signor Ippolito, che si mette a dire che non pagare le tasse significa poi poter entrare in un supermercato e rubare perché non c'era da mangiare. Beh, ma io non so sinceramente come si faccia a raccontare certe... No, lui faceva questo principio per assurdo, cioè se non si deve chiudere... No, ma è un principio, ma i principi sono cose serie, cioè semmai qui è il contrario. Innanzitutto perché se io vado in un supermercato e decido di andare in un supermercato, faccio una scelta volontaria di fronte a qualcuno che volontariamente scambia un bene con me. Io invece mi trovo di fronte ad un'altra cosa, che sono le tasse, che sono molto più simili al pizzo, eventualmente. Addirittura. Si presenta un mafioso, bussa alla porta, mi dice: ah, buongiorno, guardi, io da domani decido di darle il servizio. Ma mi scusi, ma le tasse, ma lei mi scusi, se deve fare un'analisi del sangue con la sanità pubblica, le fa perché paga delle tasse, poi dopo no, io lo sono Stato... obbligato. No, mi scusi. Sì, è obbligato allora, a pagare le tasse, indietro, certo. È un patto civico, indietro. No? No, non è un fatto civico, è un'imposizione, ma per quale motivo io devo andare alla sanità pubblica a fare l'esame del sangue? Dove ci sono premi Nobel, ma voglio dire, le chiedo... Nobel come Ronald Coase, che hanno spiegato nei dettagli che una quantità enorme di servizi, i libertari dicono tutti, possono essere servizi liberamente dal mercato. Sì. Invece io oggi devo pagare le tasse per andare a fare un esame perché esiste un monopolio, che poi come tutti i monopoli non funzionano, che si chiama sanità, o che si chiama scuola, o che si chiama giustizia. Questa è libertà. No, questa non è libertà, questa è imposizione. E allora le tasse sono un furto, non sono una cosa bellissima come qualcuno lei cos'è, in maniera orwelliana cerca di raccontare. Lei cos'è, svenuto quando sentì a Schioppa qualche anno fa, no? Guardi, il libro nasce proprio quella sera, io me ne stavo seduto a mangiare con mia moglie, a un certo punto sto mettendo un piatto mangiando un piatto di maccheroni e sento ste cose che rimbombano. È sobbalzato sulla sedia, ha detto devo scrivere un libro. Sono corso in libreria, ho preso in mano Orwell, me lo sono riguardato e ho detto: ma noi non viviamo nel 2007, noi viviamo in 1984. Perché se fossero belle, ma lei guardi, la Svizzera è un paese molto civile vicino qui a casa mia. Sì. Come mai in Svizzera fanno referendum fiscali ogni giorno? Ogni giorno li fanno. No, ma le vostre non si posizioni possono fare referendum fiscali. Sono chiarissime le posizioni. Allora, bianco o nero, più bianco o nero di così. Votate sul sito, c'è il traffico, diamo le informazioni sul traffico, poi ritorniamo dal nostro presidente Maggioli, che in qualche modo ha rinfocolato, ha scatenato questo dibattito. Chissà se è contento, adesso glielo chiedo, di avere scatenato questa anche reazione sui giornali. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, ci stiamo chiedendo se, come ha detto il presidente della Camera di Commercio di Rimini, che è qui con noi, che ha detto, insomma, vista la pressione fiscale così alta, forse le aziende, piuttosto che chiudere in difficoltà, è meglio che evadano il fisco o trascurino il fisco. Che ne pensate? Ha ragione oppure no? Presidente Maggiore, lei ha scatenato questo dibattito, insomma, ha rinfocolato un po' i libertari da una parte, gli statalisti dall'altra. La semplifico molto. È pentito oppure no? No, Io non sono pentito, assolutamente. L'argomento è importantissimo, quindi più se ne discute credo è meglio per tutti. Io dottor Milan, mi meraviglio del fatto che la mia affermazione, le mie affermazioni siano state in un qualche modo, non dico dal dottor Ippolito Facco, ma da altri, strumentalizzate, nel senso che è sembrato che io abbia rivolto un invito all'evasione. No, questo no, questo lei... Io ho fatto una constatazione, ho detto per molti non evadere significa soccombere. Allora la domanda che io farei ai miei illustrissimi colleghi di intervista è questa, ma poniamoci la domanda, è cosa migliore che i piccoli o i piccolissimi, pur di non soccombere, evadano le tasse, è cosa migliore che chiudano bottega? Ah, lasciando... bella domanda, Ippolito, lei immagino che avrà una risposta. Ippolito, lei che risponde? Di bella domanda. Intanto, dire che si può evadere o si evade o semplicemente constatarlo senza una valutazione negativa della gravità di questo, io lo ritengo, mi dispiace dirlo, assolutamente pericoloso, se non addirittura inquietante. No, ma che sia grave però lo stesso Maggioli, cioè dice non è che non ha fatto l'elogio, Facco fa l'elogio dell'evasione fiscale, Maggioli no. Bisogna stare, mi dispiace, ripeto, mi dispiace dirlo anche perché Maggioli è una persona, come sento, garbatissima, misuratissima e sensatissima, però bisogna stare molto attenti a toccare questo tasto, perché così legittimiamo qualunque cosa. E non è che io sono statalista, come è stato detto un attimo fa. Che cosa sono le tasse? Le tasse sono il corrispettivo di un servizio e dei servizi, se sono brutti andiamo alle elezioni, votiamo diversamente per qualcun altro, e il senso di appartenenza a una comunità. Non pagando le tasse ci tiriamo fuori dalla comunità. Il concetto di che si può, che qualcuno non paga le tasse per sopravvivere ed è meglio far sopravvivere le aziende, ma quale sopravvivenza è? È una sopravvivenza fuori mercato, e mi meraviglio che il Presidente della Camera di Commercio possa parlare di questo, perché far sopravvivere aziende fuori mercato, fra l'altro, significa fare concorrenza sleale, perché l'azienda che paga le tasse sopporta determinati oneri, l'azienda che non paga le tasse sopporta oneri altri minori. Oneri. Io voglio fare l'alterazione della concorrenza, voglio questo prima... è economicamente gravissimo. Allora, voglio prima degli ascoltatori, un paio ce la facciamo, bisogna essere veloce, il tempo stringe, quindi bisogna essere rapidi. Però vogliamo sentire il Presidente del Consiglio Berlusconi, che quando fece questa dichiarazione non lo era, era in campagna elettorale e nelle elezioni che poi adesso ha vinto. Abbiamo il record per l'elusione e l'evasione, giustificata da che cosa? Dalle aliquote troppo elevate. L'evasione e l'elusione giustificata da cosa? Da aliquote troppo alte. È il tema di oggi. Olav, buongiorno. Dal nome, ci ha anche scritto una mail, Olav, immagino sia non italiano. No, io sono danese. Però chiamo dalla provincia di Varese. Che ne pensa dal punto di vista danese, anche se sta in Italia, di questa discussione in Italia? Diciamo, come danese, ovviamente anche il popolo danese non vuole pagare le tasse, però lo Stato ha fatto, diciamo, molto per rendere il cittadino partecipe al progetto Stato. Alla fin fine tutti noi danesi ci sentiamo parte dello Stato. Io sono lo Stato, perciò non posso accettare che il mio vicino o chi mi deve fare una fattura me lo fa in nero. Però dice anche i danesi non amano, cioè voglio dire, il Padoa-Schioppa danese di allora non avrebbe potuto dire le tasse sono bellissime, anche voi vi sareste un po' arrabbiati. Sono due cose certe in Danimarca, le tasse e la morte. Però guardi, anche in Italia è un po' in tutto il mondo. No, le tasse è relativo, c'è una gran parte dell'Italia che non paga le tasse e perché mancano i controlli. E questa mancanza di controlli, se fosse per tutti, andrebbe bene. I controlli non ci sono perché va bene così per alcune persone che non vogliono essere controllati. Sì, Sì. Grazie Olaf. No, io vorrei tornare da Facco. Le faccio un assist, Facco, se lei è d'accordo. Scriveva, no, sempre, scriveva sempre Lottieri domenica sul giornale, tra l'altro commentando proprio le dichiarazioni di Maggioli, dicendo: ma non è una teoria eretica, perché ogni euro negato al fisco è un euro che resta nel settore privato, cioè il settore più produttivo, ed evita di prendere la strada del settore pubblico, la parte meno produttiva. So che Ippolito subito si arrabbierà, ma lei, Facco, condivide, insomma, tenere tutto nel privato? No, ma non solo condivido, è la realtà. Attenzione, qui c'è una grossa differenza fra coercizione e libertà, che Ippolito probabilmente non conosce molto bene. La libertà è quella di cui parla Lottieri, la coercizione è quella di cui parla Ippolito. Queste sono così tra le cose. Sì, però lei ha detto che la tassa... La concorrenza sleale vera nelle aziende è fra le aziende che si fanno un mazzo tanto, che pagano anche tante tasse, rispetto alle aziende che prendono finanziamenti pubblici, per esempio, e solo una quantità infinita, oppure che hanno regolamentazioni specifiche, oppure imprenditori che fanno gli imprenditori con i soldi degli altri. Questa è la concorrenza sleale. Questa però lei, però lei ha detto le tasse sleale sono come il pizzo, dai, su Facco. No, lo ribadisco, ma attenzione, guardi, il mio libro, che è tutt'altro che una provocazione, sì, che comunque non è nelle radio che si sta a discutere di politica e filosofia in un certo modo, bisognerebbe anche leggerlo, perché non è Leonardo Facco che si alza la mattina, che fa anche l'imprenditore, che decide che le tasse sono un furto. C'è una filosofia di pensiero che parte dalla tardo scolastica e arriva ad oggi, e attraversa appunto il libertarismo con Rothbard negli anni 70, che dice che le tasse sono un furto. Ma poi è la sensazione della gente. Lei vede che la gente telefona, se la gente evade, se l'imprenditore cerca di tenere quei soldi per poterli reinvestire, è perché quella è la natura dell'essere umano. Una cosa sono i servizi, anche in Danimarca, dice. Scusi, anche in Danimarca il mercato è una cosa molto seria, il mercato, che purtroppo viene distrutto dallo Stato. Va bene, ma io devo chiudere in un minuto, ce la faccio un ascoltatore ancora, Gianluigi da Venezia? Sì, ce la fa, ce la fa. Allora, l'esperienza di, sì, di un piccolo imprenditore con 15 dipendenti, sì, che per forza di cose ha tentato di rimanere in piedi, fino alla fine siamo dovuti poi ricorrere a qualcosa di più drastico, cioè vendere l'azienda. Sì. Concordo pienamente con Facco, che sostiene con tesi la sua posizione. Cioè, piuttosto di chiudere bisogna evadere. Aspetti, che io sono stato in Danimarca e concordo anche, non so se ha osservato la posizione espressa dall'ascoltatore danese. Come no, certo. Il cittadino è protagonista dello Stato, cioè lo Stato ruota attorno al cittadino. Noi cittadini siamo in questo momento solo dei centri di profitto. Si è considerati questo. È assurdo chiedere il pagamento di un servizio che non viene dato. Io il servizio lo pago, vado dal barbiere e pago il, sì, taglio dei capelli dopo che il taglio, quindi, dei capelli per fatto. Concludere, quello che ha detto Maggioli, lei è d'accordo? Cioè, piuttosto che arrivare all'estrema razza di chiudere... Ma guardi, io dico solo una cosa, bisognerebbe un po' alleggerire i costi generali per poter abbassare il livello di imposizione, più che dire troviamo quelli che non pagano, perché altrimenti paghiamo noi normalmente. Va comunque bene. Una cosa da dire, l'apparato sta assolutamente appesantendosi in maniera incredibile e strutturale, per cui le tasse stesse aumentano in funzione del fatto che bisogna mettere i controlli. È stato chiarissimo, devo chiudere con Gianluigi da Venezia. Ringrazio a tutti Mario Maggioli, presidente della Camera di Commercio di Rimini, Roberto Ippolito, autore di Evasori, Leonardo Facco, autore di Elogio dell'evasore fiscale. Potete votare sul sito di radio24.it oppure il sole24ore.com. alle 13 vi daremo i risultati di questo sondaggio e i ringraziamenti ad Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi come al solito in redazione e Peter Bescape in regia. Domani alle 7:30, bianco o nero, è tra radio24.it.